oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi? Che ha fatto sera, che adesso si ritira, passa sfida tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore, e la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare. Acqua che non si aspetta, cantava in questa canzone il grande Fabrizio De André, Dolce Nera, uno degli ultimi brani che ci ha regalato Fabrizio De André. Era la seconda metà degli anni 90, con questa canzone abbiamo aperto questa puntata di Zibaldone che, come vi dicevamo, è intitolata Storia dell'alluvione. Parliamo di Romagna e do subito il benvenuto, più ergonomico che mai, al nostro Enrico Banzola, detto meglio conosciuto da tutti, soprattutto in questa sede, come il Banzo. Banzo, bentornato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Stino, buon pomeriggio a tutti. Sì, storia dell'alluvione, perché purtroppo è quello che è toccato alla mia terra, alla Romagna. E dopo le scorse tre puntate nelle quali abbiamo riso molto perché si parlava di musica demenziale, volevo precisare anche che erano state preparate per tempo. In questa puntata dobbiamo parlare purtroppo di un evento veramente drammatico che ha colpito tutto un territorio e insomma i mezzi di informazione nazionale se ne sono occupati, diciamo che non è rimasto decisamente alla dimensione locale, però ecco, per darvi qualche piccolo dato, beh, innanzitutto va detto che anche se poi il fenomeno più vasto si è verificato intorno al 16-17 maggio, una parte della provincia di Ravenna era già stata colpita due settimane prima, ad esempio c'erano già state evacuazioni nel territorio comunale di Faenza, di Conselice, dal quale proviene il nostro caro Fausto De Salvia, e erano stati colpiti anche, ha colpito anche il territorio comunale della mia Bagnacavallo, alcune frazioni e la zona industriale del paese, però questo fenomeno, diciamo questo primo alluvione aveva avuto una entità più contenuta, anche se naturalmente si parla sempre di qualcosa di relativo, e diciamo che quella parte del territorio si stava ancora riprendendo da quell'evento, quando poi si è verificato quello di portata maggiore, che ha interessato anche le altre province della Romagna, molto colpite anche Forlì, Cesena, in provincia di Rimini è stata colpita Riccione, anche una parte della provincia di Bologna, quella più afferente alla Romagna e diciamo appartenente anche storicamente ai territori della Romagna, E insomma, è stato un fenomeno immane che ha portato anche al decesso di 14 persone, e a un certo punto gli sfollati erano circa 36.000. Adesso, mentre parliamo, questo dato è rientrato perché molte persone sono potute tornare a casa, però la situazione è lungi dall'essere risolta, ci sono ancora molti sfollati, a volte a casa di parenti, altri in centri di punti di raccolta in altri comuni attigui che sono stati, diciamo, risparmiati dall'acqua, ed è una situazione che ovviamente si prolungherà nei mesi, ecco, anche quando l'attenzione della stampa nazionale verrà meno, ecco, diciamo che la situazione ovviamente non si sarà risolta. E in questo senso volevo segnalare, per dovere di cronaca, che il 23 maggio il governo ha varato un decreto di emergenza con il quale saranno stanziati 2 miliardi per il territorio. Poi bisogna vedere per il territorio della Romagna, poi bisogna vedere come sarà gestito questo denaro, come arriverà, però ovviamente non è il momento per fare considerazioni di questo tipo, stavo solo riportando la notizia. Certo, no, hai fatto molto bene, Banzo. Avremo diversi ospiti in queste 2 ore di Zibaldone, avremo con noi Giovanni Costa, che è direttore generale del Consiglio delle Bonifiche, del Consorzio di Bonifica, grazie, della Romagna Occidentale. Avremo con noi Federico Savini, sta seguendo molto da vicino le vicende romagnole, e poi avremo anche le testimonianze proprio del già citato Fausto De Salvia, che è con Serice, proprio uno dei centri più colpiti dall'alluvione, e di Laura Orlandini, che è stata per anni nostra collaboratrice a Zibaldone, che ora vive nella città di Ravenna, che si è salvata appunto dall'alluvione, ma appunto tutta la provincia è molto colpita, quindi sentiremo anche le loro testimonianze. Andiamo ad ascoltarci una canzone che non poteva mancare in una puntata dedicata alla Romagna. Non poteva. Romagna mia, secondo casa dei. E poi troviamo subito Giovanni, il nostro primo ospite, ossia Giovanni Costa, per parlare con lui della situazione appunto in Romagna e fare un quadro molto definito di quello che è successo e perché è successo. Nostalgia d'un passato, ove la mamma mia ho lasciato, non ti potrò scordare, casetta mia, in questa notte stellata, la mia serenata, io canto per te, Romagna mia. Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella alla casolare. Romagna mia, lontana da te. ti penso, vorrei tornare dalla mia bella alla casolare. Romagna, Romagna mia, lontano da te non si può star. Abbiamo ora in collegamento telefonico con noi Giovanni Costa, che è direttore generale del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. Buon pomeriggio innanzitutto. Buon pomeriggio a tutti. E grazie di essere con noi in queste giornate così difficili e per il ruolo anche che lei svolge. E volevo partire proprio da qui, insomma. Voi vi occupate soprattutto del territorio appunto della Romagna Occidentale, ossia quella frangia della Romagna che va dall'Appennino, passando tra Imola, Faenza, Lugo e arrivando poi fino alla zona nord di Ravenna, quindi alcune delle zone più colpite dall'alluvione di questi ultimi giorni. Quindi brevemente innanzitutto sapere da lei, che conosce molto bene il territorio, quali sono i territori più colpiti e qual è la situazione in questo momento. Ora, praticamente è stato colpito da questi eventi tutto il territorio del nostro, che è diciamo di competenza del nostro ente, che è quello compreso tra il Sillaro e il Damone, quindi siamo nella parte occidentale della Romagna. È stato un territorio colpito a causa di contemporanee rotte fluviali che si sono verificate sia il 2 e 3 di maggio e si sono poi ripetute il 16 di maggio. E precisamente le rotte sono verificate in tutti i fiumi che attraversano questo territorio, quindi il Sillaro, partendo da ovest, il Santerno, il Segno e il Lamone. I corsi d'acqua naturali attraversano i territori di pianura in condizioni di pensilità, cioè sono sopraelevati anche di 10 metri rispetto al piano campagna sottostante. Di conseguenza, quando l'acqua fuoriesce dai fiumi, come è accaduto in occasione di queste rotte, invade poi il territorio sottostante, dove non può ridefluire nei fiumi, in quanto i fiumi sono, come ho detto prima, sopraelevati. E di conseguenza quest'acqua poi confluisce nel reticolo di bonifica dei canali artificiali di scolo, che sono quelli gestiti dal nostro ente, che però sono dimensionati per portare via le piogge e non certo per portare via le acque di quattro fiumi che rompono in contemporanea. Questo ha fatto sì che tutto il territorio compreso tra questi fiumi si sia allagato. Nelle zone di più alta pianura, attorno alla Via Emilia per intenderci, l'acqua ha fatto danni enormi, però poi andando giù a gravità è defluita verso i territori di più bassa pianura. E, giusto per citare, centri abitati che sono stati colpiti duramente da queste inondazioni sono stati quello di Castel Bolognese, di Solarolo, di Bagnara, di Barbiano, di Lugo, è stato colpito severamente la città di Faenza, la frazione di Granarolo e anche la città di Bagnacavallo. E attualmente la città che più di tutte, capoluogo di comune, che più di tutte è stato colpito da questi eventi, dove tuttora persistono estesi allagamenti con gravissimi problemi di vario tipo, è la città di Consedice, che è nella zona nord-ovest del territorio della Bassa Romagna. Eh sì, la situazione a Consedice è davvero drammatica. Abbiamo avuto anche la testimonianza di Fausto De Salvia, che appunto risiede in questo comune. E, tornando anche alla vostra attività come consorzio di bonifiche, gestite diciamo un territorio molto ampio, si parla di circa 2000 km quadrati e una rete di canali molto numerosa che copre praticamente un migliaio di chilometri ad occhio e croce. La situazione di questi canali ovviamente è, come ci ha raccontato, molto complessa in questo momento, ma quali sono le possibilità in questo momento, diciamo pensando al futuro prossimo e anche alla ricostruzione che verrà, e diciamo soprattutto quale può essere il lavoro che voi potete mettere in campo per appunto aiutare nei lavori e a gestire la situazione? Allora, come ho detto prima, i canali sono stati invasi da acqua che proviene da corpi idrici che non sono nella gestione del consorzio. E quindi il quantitativo d'acqua che si è riversato è un quantitativo che fra l'altro noi abbiamo stimato in 120 milioni di metri cubi per quanto riguarda il primo evento, quello del 2-3 di maggio, e in circa 400 milioni di metri cubi con il secondo evento, quello del 16 di maggio. Giusto per avere un'idea, 400 milioni di metri cubi sono più di 10 invasi di Ridracoli, che è l'invaso che dà acqua potabile a tutta la zona della Romagna. Quest'acqua qui ovviamente non poteva essere defluire in modo ordinato attraverso canali che sono dimensionati per servire, certo, un altro bacino, che è quello della bassa pianura, quello della pianura appunto, che quindi è sottostante rispetto ai fiumi. Di conseguenza sono venuti hanno subito un sovraccarico idraulico, cioè un afflusso di acqua superiore alla capacità di smaltimento di questi canali. Ugualmente hanno svolto appieno la loro funzione, perché in assenza di queste opere le conseguenze sarebbero state molto ma molto più catastrofiche, così come sarebbero state più catastrofiche in assenza di altre opere consorziali, che sono le casse di laminazione delle piene, che però sono quelle dell'ente, gestite dall'ente, sono casse di laminazione di canali e non dei corsi d'acqua naturali pensili, quindi hanno anch'esse delle dimensioni che non sono idonee a poter contenere le portate di quattro corsi d'acqua che fuoriescono in contemporanea. Attualmente l'ente, oltre a monitorare continuamente H24 ormai dal 2 di maggio lo stato dei canali di bonifica, alcuni dei quali trovandosi sovraccaricati sono tracimati o in alcuni casi sono verificate anche delle rotte negli argini dei canali di bonifica, il consorzio è impegnato nel cercare di smaltire nel più breve tempo possibile tutta l'acqua che si è venuta ad accumulare nel territorio ad assitura più depressa, quello più verso il Reno, attraverso l'installazione e la conduzione di gruppi di pompaggio che in parte erano in dotazione all'ente, gruppi di pompaggio mobili intendo, che si affiancano agli impianti idrovoristabili dell'ente. In parte erano in dotazione all'ente e in parte sono state, la maggior parte, sono stati forniti attraverso il canale della Protezione Civile. Noi attualmente stiamo conducendo, oltre agli impianti idrovoristabili, 60 gruppi di pompaggio di emergenza, con una portata complessiva significativa, che quindi consente di poter alleggerire il carico idraulico dei canali e allontanare dalle zone allagate l'acqua, che comunque è ancora tanta. Per cui, parlando per esempio dell'abitato di Conselice, si stima che per poter liberare dall'acqua le strade del centro abitato di Conselice ci vogliono ancora 4-5 giorni, e nonostante il potenziamento dei pompaggi, mentre per l'area circostante rurale è previsto che ci vogliono anche 10 o 15 giorni. Però in assenza di questa attività deve essere chiaro che, data la morfologia del territorio, cioè con un territorio di pianura che è sovrastato dai fiumi, questi allagamenti non rimarrebbero, diciamo, per un periodo di tempo limitato, ma sarebbero permanenti. Certo. Che poi sarebbe la situazione in un certo senso naturale del nostro territorio, come si può essere testimoniato dalle carte storiche che lo raffigurano, dove si vedono vaste aree paludose che coprono praticamente tutta la zona che è a valle dell'attuale San Vitale. È un territorio che è stato strappato alle acque attraverso delle opere artificiali che devono essere mantenute in efficienza ogni anno, che è compito del consorzio di bonifica, e senza questa opere qui, quella condizione che noi ci auguriamo sarà sicuramente temporanea, ci auguriamo duri il meno possibile, sarebbe purtroppo una condizione permanente. Le condizioni di efficienza dei canali erano ottime, il problema è che quello che ha collassato è la rete idrografica naturale, sì, rete idrografica naturale che non è affidata alla gestione del nostro ente. Sì. Poi, detto questo, bisogna sempre risalire alla causa prima, se non unica, di un evento di questo tipo, che non è, come spesso si dice, la mancata o scarsa manutenzione dei corsi d'acqua, ma è un evento di pioggia che è, supera ogni dato, ogni record, fino a, risalendo indietro nel tempo da quando vengono rilevati i dati secondo tecniche che sono comparabili con quelle attuali. Un'ultimissima domanda, Giovanni, che riguarda il futuro. Ovviamente non si può mai prevedere quello che succederà, no? E soprattutto per quanto riguarda anche questioni climatiche, eventi eccezionali come quelli di queste ultime settimane. Però, insomma, si dibatte da tempo sul fatto che il clima sta cambiando, che gli eventi estremi, come appunto anche delle piogge quasi tropicali, come quelle che si sono vissute, potrebbero essere più frequenti in futuro. Ecco, dalla vostra posizione, che cosa state pensando? Ci possono essere delle modifiche al lavoro eccezionale che avete svolto e che state svolgendo in questi giorni per cercare di limitare in futuro i rischi di eventi simili che potrebbero accadere? Allora, il Consorzio Bonifica ha già in programma diversi interventi, ce n'è uno in particolare che è candidato ai fondi del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per aumentare la resilienza dei canali di bonifica di fronte a eventi come appunto le piogge di questo mese di maggio. Va però fatta una precisazione: se non si fossero state le rotte fluviali, quindi se il nostro territorio di pianura non fosse stato invaso dall'acqua dei fiumi, i canali già con le attuali, nelle attuali condizioni, sarebbero stati in grado di smaltire tutte le acque di pioggia senza che si verificasse alcun danno per la popolazione e per i beni materiali. Quindi innanzitutto bisognerebbe partire che con una delle opere forse più urgenti da realizzare sarebbero delle casse di laminazione dei corsi d'acqua naturali da realizzare a monte rispetto alla via Emilia, quindi prima che i corsi d'acqua naturali assumano un andamento pensile. Questo per poter contenere le portate in eccesso dei corsi d'acqua naturali quando si verificano delle piogge particolarmente abbondanti. C'è da dire che nessuna opera artificiale potrà mai assicurare il rischio zero, perché le opere vengono comunque progettate sulla base di specifici parametri di riferimento, uno dei quali è il tempo di ritorno dell'evento che si intende fronteggiare. Questo tempo di ritorno viene determinato sulla base delle statistiche idrologiche, per cui se poi si verifica un evento che supera tutti i record storici di cumulo di precipitazioni, non è detto che le opere che vengono progettate possono bastare per poter azzerare il rischio. Quindi deve anche crescere la consapevolezza che di fronte a questi fenomeni di cambiamenti climatici ci deve essere anche una maggiore cultura della popolazione, e questo lo dico per carità, col massimo rispetto della popolazione. Io stesso sono un alluvionato, ho avuto la casa allagata. Io ho avuto, scusa questo dettaglio personale, anche due macchine che portano sfascia carrozze, quindi sono sicuramente vicino alla popolazione. Però bisogna rendersi conto che ogni opera artificiale dell'uomo è un'opera per sua natura finita, e se si verificano degli eventi che superano i parametri di riferimento per cui l'opera è stata realizzata, uno si deve aspettare che comunque ci può essere una condizione di rischio, e di fronte alla condizione di rischio bisogna essere educati a ad adottare tutti i comportamenti che servono innanzitutto a salvare le vite umane, e poi in un secondo momento viene anche la tutela dei beni materiali. Certo. Quindi, che in priorità io posso indicare le casse di laminazione delle piene dei fiumi, dei corsi d'acqua naturali. Per quanto riguarda anche i canali di bonifica, noi abbiamo già da tempo in programmazione di fare degli interventi di casse di espansione per la laminazione delle piene dei canali artificiali, che però hanno una dimensione ovviamente che ha un ordine di grandezza inferiore a quelle che sono da realizzare per i fiumi, sarebbero da realizzare per i fiumi. Giovanni Costa, grazie davvero di essere stato con noi, di averci spiegato così bene la situazione e insomma le possibilità che ci sono anche in vista del futuro con le molte incognite esistenti. Giovanni Costa, direttore generale del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, grazie davvero di essere stato con noi, buon lavoro e davvero un in bocca al lupo. Grazie a lei, un saluto agli ascoltatori, grazie. Che bel sogno che io ho fatto, la mi mind, la mi tra i mondi. Ho sogno quando andava a scherz per la mi campagna, i prima anco passe contenti in la mi Romagna. Bella visione d'un tramonto, un'antica canzone d'amore. Vola pansir dalla mi man, vola tra i monti tla mi can, e mi nid le la so Romagna bella, a tornar un bel de, a vi tranquil da te. Bel sogno che io fa, la mi ma, la mi ca, tra i mu. O sogne quando andiva a scherz per la mi campagna, i prima anco passe contenti in la mi Romagna. Bella visione d'un tramonto, un'antica canzone d'amore. Vola pansir dalla mi man, vola tra i monti tla mi can, e mi nid le la so Romagna bella, a tornar un bel de, a viv tranquil da te. Antica canzone d'amore. Questa canzone si intitola Mama Luntena, lui o loro, Banzo, meglio spiegarlo, qui sono gli Extraliscio, e visto che ci accompagna musica romagnola, brani famosi come Romagna Mia ovviamente, che non poteva mancare, di Secondo Casadei, ma anche artisti che sono attivi e magari meno conosciuti al giorno d'oggi, gli Extraliscio noi ne abbiamo parlato spesso a Zibaldone, però Banzo forse vale la pena anche dire qualcosa su questo progetto. Beh, gli Extraliscio sono sostanzialmente un tentativo di portare l'eredità della musica da ballo romagnola nel presente. È un progetto di Mirko Mariani, già noto per i Saluti da Saturno, insieme a due leoni della vecchia guardia di Licio Romagnolo, cioè Moreno il Biondo e Mauro Ferrara, che con Casadei hanno suonato per molti anni e poi insieme nell'orchestra Grande Evento. E insomma, gli Orchestra Liscio sono abbastanza conosciuti, credo, ormai a livello nazionale, visto che hanno anche partecipato a Sanremo. A Sanremo, certo. E questa canzone era tratta dal loro primo disco del 2016, era stata incisa anche da Raul Casadei nel disco Musica Solare dell'82, e a me piace, oltre perché è una canzone molto bella, perché appunto c'è il dialetto romagnolo, e mi sembrava bello coprire, appunto, anche dare un po' di rilevanza alla lingua della Romagna, che purtroppo sta sparendo progressivamente. È anche un altro modo per augurare alla mia terra di avere coraggio e di riuscire ad andare avanti. E purtroppo sul testo volevo sottolineare, c'è una frase che dice: il mio nido è lassù, Romagna bella. Evidentemente è figurato, perché purtroppo siamo finiti, alluvionati, anche perché la nostra terra è depressa proprio a livello geografico. E però era soltanto una piccola riflessione che mi è venuta da un verso che aveva un valore metaforico, si capisce? Assolutamente. E prima di collegarci con Fausto De Salvi e Laura Orlandini, che ci racconteranno un po' anche la loro esperienza, insomma, trovandosi il primo a Conselice, una delle zone più colpite, lo ricordavamo anche prima, lo ricordava anche Giovanni Costa, e Laura invece a Ravenna, andiamo ad ascoltarci un altro brano. E qui Banzo, ti lascio presentare questa canzone e soprattutto questo artista, che è Giacomo Toni. Il brano che abbiamo selezionato è si intitola A Nessuno. Sì, Giacomo Toni credo che sia originario di Forlimpopoli, quindi più zona Romagna Cesenate, però è sicuramente uno dei nomi di rilievo della nuova musica romagnola, un cantautore sui generis. Lo abbiamo, anche lui è stato ospitato molto spesso, non lui direttamente, non abbiamo ancora avuto il piacere di intervistarlo, ma abbiamo coperto la sua musica in varie circostanze, e appunto perché secondo me è una voce che nel nostro territorio sta spiccando, è una poetica molto personale. E i suoi live sono molto molto divertenti. Incendiari, bravissimo, hai proprio ragione, vi consigliamo di andarci. Andiamo ad ascoltarci questo brano di Giacomo Toni, A Nessuno, eccolo qua. Appena sono ricco mi compro tutta la pineta. Appena sono ricco disbosco tutta la pineta. Ci faccio un bel parcheggio e non faccio entrare nessuno. A nessuno, a nessuno, a nessuno. A nessuno, a nessuno, a nessuno. Torna l'appetito, faccio scannare dei maiali. Se mi torna l'appetito, faccio scannare dei maiali. Non si butta via niente e non si dà niente a nessuno. A nessuno, a nessuno, a nessuno. A nessuno, a nessuno, a nessuno. Giorni migliori voi mi avete dato un bel da fare. Giorni migliori voi ci avete dato un bel da fare. Non avete bisogno di niente, non chiedete niente a nessuno. A nessuno, a nessuno, a nessuno. A nessuno, a nessuno, a nessuno. Eccetera, eccetera, e tutte le cose che si dicono alla fine. eccetera eccetera, e tutte le cose che si dicono alla fine. Io non mi aspetto niente e non aspetto nessuno, a nessuno, a nessuno, a nessuno, a nessuno, a nessuno, a nessuno, a nessuno, a nessuno, a nessuno, a nessuno, a nessuno, a nessuno. Questo era Giacomo Toni, A Nessuno, un altro cantautore della Romagna che abbiamo seguito spesso a Zibaldone. Ora abbiamo in collegamento telefonico con noi Laura Orlandini e Fausto De Salvia, collaboratrice storica e collaboratore tuttora rispettivamente dello Zibaldone, romagnoli doc che vivono soprattutto in terre di Romagna e che insomma abbiamo voluto anche invitare in questa puntata speciale titolata, come sapete, Storie dell'Alluvione, perché ci diano una testimonianze di prima mano. Innanzitutto, Laura, bentornata a Zibaldone. Fausto, bentornato anche a te. Ciao Steven, grazie. Ben, sono molto contenta di tornare qui dopo 10 anni, seppur a distanza. Ciao Steven, ben ritrovato. Noi ci siamo sentiti poco tempo fa, anche se per uno speciale sul rock demenziale. È passato poco tempo, però sono cambiate molte cose. Eh sì, è proprio così. Laura, grazie davvero di essere ritornata appunto qui a Radio Contrabbanda. Tra poco parleremo con te, tu ti trovi a Ravenna, quindi della situazione della città di Ravenna che è stata salvata dall'alluvione, però prima ci piacerebbe parlarne con Fausto, perché Fausto si trova proprio, diciamo, in quello che è il centro dell'uragano, uno dei comuni più colpiti, forse il più colpito proprio della Romagna, ce lo spiegava prima Giovanni Costa, che è con Selice. Fausto, se puoi raccontarci un po' qual è la situazione lì da te, insomma, e offrirci la tua testimonianza, credo che sarebbe molto interessante. Sì, Steven, diciamo che mai mi sarei immaginato che Conselice andasse nelle aperture dei telegiornali nazionali costantemente come in questi giorni. È una cosa fuori dal mondo, io davvero faccio quasi fatica ancora a concepirlo. Di fatto abbiamo sempre saputo che il nostro comune è molto basso, io sono tipo su 5 metri sul livello del mare, per intenderci, quindi dove sono adesso, sono sfollato da pareti, siamo a 8 metri, quindi considera che ovviamente se c'hai un metro d'acqua, naturalmente, ecco, da 5 a 6 metro d'acqua va a finire lì, ma però siamo lontani dai fiumi, ma siamo in mezzo a 3 fiumi che sono poi Santerno, il Sillaro, il Reno, poi ovviamente giustamente Costa ne ha parlato a lungo, e mai avrei pensato che rompendo tutti e tre contemporaneamente, seppur in punti diversi, tutta l'acqua convergesse da noi, e praticamente questo è successo. Paradossalmente abbiamo delle frazioni molto piccole che sono anche solo quel metro, 2 metri più alte, che non hanno mai avuto neanche una goccia, a parte le piogge ovviamente. Invece praticamente inizia l'alluvione da 3-4 numeri civici da casa mia, quindi la serie della fortuna proprio. Praticamente c'è questo declivio che è tipo 4 case dopo la mia, e quindi con questa vasca immensa che si sta ritirando adesso. Vengo da una session di idropulitrice, pompa idraulica per svuotare la cantina, quindi comunque insomma, sono giornate, come puoi immaginare, molto intense, però gradualmente si sta ritirando, stanno passando per il paese squadre provenienti da tutta Italia, stanno cominciando a svuotare appunto le cantine, i seminterrati, però è lunga, lunghissima, come ha detto Costa, ci vorranno 4-5 giorni, sperando che non piova, ovviamente facendo tutti gli scongiuri del caso, che non ci siano altre criticità idrauliche, però davvero, e la parte più bassa del paese, che è sui 4 metri, quella davvero ci sarà proprio l'ultimissima a svuotarsi, ed è tuttora una mezza palude, ecco. Cioè, diciamo che insomma, per spiegarlo in una forma grafica, Conserice è come una specie di buca, diciamo, nel mezzo della Romagna, e lì si è convogliata gran parte dell'acqua. E magari molti ascoltatori, per quanto abbiano potuto sentire il nome di Conserice anche sui media nazionali, insomma, però diciamo un pochino quanti abitanti ha Conserice, giusto per farci un'idea, diamo qualche dato se è possibile, Fausto. Sì, il comune è piuttosto piccolo, veleggia attorno ai 10.000 abitanti come comune complessivamente, quindi siamo su 9.900, più o meno siamo su quelle cifre, ed è poi concentrato in un capoluogo che ha circa 5.000 abitanti, che è quello interamente allagato, e altre frazioni che invece hanno avuto fortunatamente meno problemi. Ha una gran parte agricola, infatti noi in realtà siamo già stati due volte alluvionati, però l'alluvione è quella di inizio maggio, che ha colpito molto Faenza, come avete visto ovviamente, molto le campagne di Bagna Cavallo, e le nostre campagne paradossalmente non aveva preso il centro abitato, perché lì solo un fiume aveva esondato, e quindi ovviamente canali, il sistema dei canali aveva tenuto, e quindi avevamo avuto dei sobborghi di persone, parliamo di 100-200 persone coinvolte, ovviamente, che già avevano già perso tutto, perché ovviamente avevano avuto l'acqua in casa mezzo metro o un metro, però è con devastati tutti i campi. Noi anni fa, ricordo che ho delle elementari che ci raccontavano che avevamo il frutteto più grande d'Italia, è una cosa che ti dicevano quando eri al quarto elementare in geografia, dicevo con sé, diceva, siamo piccoli però abbiamo il frutteto o il secondo frutteto più grande d'Italia. Ovviamente negli anni non c'è più tanta frutta naturalmente, però c'è comunque una produzione agricola diversificata, allevamenti ovviamente con... Puoi immaginare, non tutti gli animali sono stati purtroppo salvati, non c'è stato fisicamente il tempo. E poi dopo, appunto, questa volta invece ha colpito da tre parti, ovviamente non c'è stato scampo. Quindi paradossalmente noi abbiamo avuto l'indicazione di rifugiarci in casa, e quindi siamo rimasti poi bloccati, come i topi naturalmente. Siamo corsi velocemente a piani alti delle abitazioni, però dopo c'è stata soltanto la possibilità di rimanere appunto in sicurezza, però puoi immaginare quanta sicurezza sia stare senza luce, senza acqua, il gas alcuni non l'avevano, perché naturalmente dipende se il contatore ti va sott'acqua, è anche pericoloso naturalmente. È stato davvero... Appunto, rimaniamo su questo, che credo che insomma sia anche molto interessante. Cioè, la situazione di gran parte ancora della popolazione di Conserice è, diciamo, sono state evacuate queste persone in comuni limitrofi o in zone, diciamo, predisposte per ricevere le persone che hanno dovuto abbandonare le loro case. E anche nel tuo caso tu ti trovi adesso ospite da parenti fuori Conserice, così? Sì, il comune confinante, quindi stiamo parlando di 7-8 km di distanza, ma sembra un altro mondo. Fra l'altro ho l'argine del Santerno a 100 metri, però quest'argine non ha rotto qui, e fra l'altro siamo alti, quindi paradossalmente se rompesse travolgerebbe delle cose, però non si fermerebbe qui l'acqua, sono i principi basilari della fisica, quindi paradossalmente, e tanti comunque sono andati da parenti, ovviamente puoi immaginare… Naturalmente le famiglie con meno contatti, meno legami familiari, invece hanno dovuto rivolgersi alle scuole medie, il classico punto di ritrovo, che naturalmente è in posizione elevata, oppure i palazzetti dello sport di Lugo, Argenta, sono comuni confinanti a 10-15 km, con strade sicure. Ecco, quindi ho uno zio che ha voluto fare per un po' il giapponese che resisteva, no? Nell'isola del Pacifico, è stato uno degli ultimissimi a abbandonare, però l'hanno convinto, che perché davvero lui aveva 2 metri d'acqua, dico cosa rimani a fare, davvero a fare l'eroe per difendere la tua abitazione dai sciacalli, cioè i sciacalli purtroppo ci sono in giro, adesso molte sono anche voci, però... Certo. Hai tutti che ti dicono no, ma io li ho visti, sai, poi naturalmente la vox popoli in questi casi si diffonde rapidissimamente, ecco. Coraggio innanzitutto, Fausto. Laura, tu invece ti trovi a Ravenna, il capoluogo di provincia, che invece è stato risparmiato anche perché proprio prima Fausto ci parlava dei campi attorno a Conserice, c'è stata anche un'importante decisione assolutamente difficile da parte della cooperativa agricola Braccianti del Ravennate di salvare la città di Ravenna, allagare ettari ed ettari appunto di campi coltivati. Sì, Steven, io sono rimasta, sono anche stupita e mi complimento con Fausto per la serenità e lucidità con cui ha raccontato una situazione così, così drammatica. Noi abbiamo vissuto giornate di grande angoscia, dove appunto, cosa assolutamente inedita, hanno rotto, come già stato detto, tutti i fiumi, ma ha voluto dire per chi era qui la rottura delle certezze, no? di quelle mura che da sempre ci proteggono, e con questa massa d'acqua che si spostava e che quindi ha travolto con enorme violenza i primi centri abitati in cui si trovava, ma che poi appunto per legge naturale è andata sempre più verso valle. Quindi chi conosce il territorio, chi è qui, sa qual è il prossimo centro abitato. E questo è successo quindi ben dopo le ore della rottura degli argini. Noi comunque continuava l'angoscia, perché quest'acqua travolgeva campi, travolgeva centri abitati, veniva fuori dai canali, dai vari argini di scolo. Quindi tutto questo sistema, diciamo, che serve per proteggere la campagna e che invece è diventato un veicolo di acqua. Quindi oltretutto io sì, sto a Ravenna e la mia famiglia si trova a Fusignano, che è l'altro paese, uno degli altri pochi centri che sono stati risparmiati. Cosa succede? A Ravenna l'acqua è arrivata dopo un po'. Ed ha allagato velocemente, devo dire, perché poi c'è stata una presenza istituzionale nel caso di Ravenna, ma anche di altri centri, molto forte. Su cui questo lo dobbiamo dire, cioè, abbiamo sentito il tentativo di proteggere la popolazione, quindi anche di far evacuare preventivamente diversi centri vicini al fiume proprio, però poi c'è stata invece una zona periferica di Ravenna che si è allagata in maniera velocissima, passando per un fosso che non si aspettava che passasse di lì. È vero che ci sono leggi chiare che ci spiegano dove potrà andare l'acqua, ma in realtà era tutto un punto interrogativo. Quindi veramente Ravenna a un certo punto si è trovata con una enorme massa d'acqua alle sue porte, una parte un pochino più depressa della città, quindi all'inizio teneva, però c'è stata davvero una notte in cui siamo andati a dormire pensando: ok, adesso arriva. Adesso tocca anche a noi, perché semplicemente era sembrato in quei giorni, in quelle ore, semplicemente la conta di chi fosse il prossimo, non se ci fosse qualcun altro, ma chi fosse il prossimo centro. Quindi una qualcosa di inarrestabile, anche perché, Steven, stando qua, lo sappiamo che stiamo nella bassa, lo sappiamo che siamo stati una palude. Allora, per raccontare anche quello che è successo, che io, occupandomi poi di storia, anche di storia locale, ho notato una connessione fortissima proprio davvero con la storia di questo territorio, perché con questa grande massa d'acqua che era alle porte di Ravenna, un pomeriggio di sabato, mi sembra, arriva la notizia che la CAB Terra, appunto la cooperativa agricola Braccianti, che nasce nel 1907, quella di Piangipane, quella lì che ha i terreni lì, accetta, gli viene chiesto di rompere un argine di un canale che era lì a proteggere le sue terre, per provare a salvare il centro abitato, allagando il proprio campo e sacrificando in questo modo quindi tutto il raccolto. Siamo in maggio, non siamo in novembre, quindi vuol dire allagare un campo nel momento in cui ne trai profitto. Era incerto, è stato un sacrificio che non era detto che andasse bene, cioè quest'acqua doveva arrivare a un'idrovora, però l'idrovora doveva fare il suo dovere, e se veniva sommersa d'acqua non avrebbe funzionato. Per cui siamo stati, io oltretutto avevo a casa mia un'amica sfollata dal suo centro abitato, cioè c'è stato un momento di grandi movimenti di popolazione e anche di grande aiuto tra una parte e l'altra, però con molta difficoltà a muoversi. Cioè, Ravenna c'è stato un momento che era isolata perché circondata da acqua da tutti i lati praticamente, e ha funzionato perché quest'acqua ha allagato questo campo, poi l'hanno controllata, quindi questo allagamento, e hanno iniziato a pompare. Ora Fornace Barattini, questo centro alle porte di Ravenna, è ancora non è ancora andata via l'acqua, e però sì, l'acqua inizia a defluire, a fare praticamente il giro, ecco. Non ha travolto il centro cittadino, non ha coinvolto il centro cittadino, che ha una darsena di mare, cioè il mare, la strada più vicina per andare al mare sarebbe stata quella, ecco. Ricordiamo Laura, anche per gli ascoltatori, che insomma a Ravenna stiamo parlando già di una città di una dimensione molto maggiore ai centri di cui parlavamo poc'anzi, e se non erro si muove attorno ai 70-80 mila abitanti, è così? Sì, il centro direi di sì, poi il comune di Ravenna è molto molto esteso e ha moltissimi piccoli centri, quindi c'era anche da, e che alcuni sono stati certo, coinvolti. Sì, sì, ma il centro però città, chiaramente diciamo, il centro abitato, sì. Il centro abitato avrebbe coinvolto una percentuale altissima di popolazione, certo. E tra l'altro di difficoltà. Con i monumenti e esattamente, tutto. Tra l'altro è una città con un grandissimo patrimonio artistico, quindi insomma una scelta davvero, insomma, questa della cooperativa agricola Braccianti, che insomma è da sottolineare, direi. E facciamo una breve pausa musicale, andiamo a ascoltarci proprio una canzone che si intitola Ravenna dei Ronin, e poi rientriamo qui e continuiamo a parlare di quello che sta succedendo in Romagna, appunto, con i nostri ospiti Laura Orlandini e Fausto di Sara. Erano i Ronin a Ravenna, torniamo qui con Laura Orlandini e Fausto De Salvia. Laura, prima ci stavi raccontando della cooperativa agricola Braccianti, che è qualcosa, anzi, che è interessante non solo per la decisione attuale, ma cercando di offrire una visione storica anche di questa organizzazione. Sì, allora la Romagna è la terra delle cooperative braccianti, sono nate qui e hanno una storia quindi che viene dagli anni Ottanta dell'Ottocento e tutti questi territori hanno avuto la nascita di una cooperativa agricola braccianti in ogni borgo già all'inizio del Novecento, come ho detto prima. Quella lì che ha agito è del 1907, mi pare, parlo a memoria, ma è una riflessione su questo territorio che appunto in realtà in qualche modo è stato spinto verso la cooperazione proprio perché per la sua conformazione fisica. Se ci pensi, un argine o una bonifica non è un muro, quindi non è che ognuno può proteggere solo il proprio territorio, è necessario collaborare, è necessario che l'argine tenga tutto e appunto se non tiene in un punto si allaga tutta la pianura. Le cooperative braccianti sono quelle che con le carriole li hanno fatti questi argini, sono andati a bonificare anche l'agro romano e mi ha colpito questa tradizione, che è una tradizione appunto di collaborazione per salvare tutti, per proteggere tutti, cioè necessaria in una dinamica che o ci si protegge tutti o siamo tutti sott'acqua. E proprio per proteggere tutti, anche in questo caso, hanno agito, no? Hanno rotto questo argine per poter salvare una situazione, per poter salvare almeno qualche cosa di tutto quello che si era distrutto. Ovviamente in altri punti non è stato possibile provare a fare queste cose perché l'acqua è arrivata troppo in fretta o ne è arrivata troppa, però quei centri che si sono salvati grazie a questo controllo del territorio che è anche una sapienza antica e di lotta contro le acque e una storia di collaborazione tra pari. Siamo tutti sulla stessa barca perché siamo tutti a questo livello molto basso sul livello del mare. E in fin dei conti anche sono cose di cui ci parlava Giovanni Costa poc'anzi, no, riguardo al consorzio bonifiche della Romagna occidentale. E Banzo, so che avevi una domanda per Fausto, se non erro. Sì, non ho interrotto prima perché insomma volevo lasciare ai nostri ospiti lo spazio per raccontare la situazione direttamente, però Fausto, essendo Conselice diciamo l'unico comune, l'unico territorio ancora interessato direttamente dalle acque, so che la AUSL Romagna sta monitorando la situazione perché benché non ci sia un rischio concreto al momento, la situazione va controllata perché parte delle acque che coprono il paese è anche di derivazione fognaria, quindi diciamo che ci sono dei potenziali rischi per la salute che però al momento non destano preoccupazioni eccessive. Sì Enrico, il rischio c'è perché comunque è l'acqua che ristagna, considera dalla sera di mercoledì scorso, quindi andiamo verso i 10 giorni, è davvero, in alcune zone è davvero tantissimo. E non è un'acqua che muove appunto perché non c'è nessun corso d'acqua, gli argini sono stati riparati e quindi ovviamente non ha movimento se non quando ovviamente passano i mezzi di soccorso che la scostano, però ovviamente essendo così stagnante puoi immaginare zanzare naturalmente o comunque insetti che già sono presenti nelle zone abbondantemente, questo immagino che li favorisca ulteriormente. E poi le acque sono contaminate fra oli di motore naturalmente perché tante macchine naturalmente sono state coinvolte e comunque gli scarichi fognari che si sono mescolati, davvero l'odore non è il massimo, posso testimoniare. E quindi le raccomandazioni sono più che mai doverose, quindi ovviamente usare guanti, stiamo usando guanti anch'io per pulire casa naturalmente, mascherina, guanti di gomma, stivali di gomma che naturalmente nei primissimi giorni erano ovviamente merce rara perché è arrivato tutto davvero così all'improvviso. E quindi fra l'altro hanno ricominciato le vaccinazioni antitetaniche, naturalmente i richiami, quindi insomma un progetto insomma, per poter proteggere meglio la popolazione, perché naturalmente rimangono comunque persone che vogliono mantenere il controllo sulla propria abitazione, magari hanno il mezzo metro di acqua e allora preferiscono ancora non andare via e quindi naturalmente però si espongono una situazione, l'odore è piuttosto fastidioso. Fortunatamente l'acqua si stanno ritirando, quindi, però lasciano poi fango naturalmente, quindi hai del fango, puro fango che si sta seccando, quindi naturalmente la situazione non è proprio assolutamente piacevole, questo no. Sì, tra l'altro ecco, questo discorso sul fango è anche una cosa importante per ciò che dicevamo prima riguardo ai campi, ossia non solo questi campi sono allagati e quindi perdono, insomma, le coltivazioni che magari si stavano raccogliendo o si sarebbero raccolte nei prossimi mesi, ma i danni portati da strati di fango che sono anche magari di 30, 40, 50 centimetri o più, insomma, comporterà delle conseguenze anche a medio termine in un terreno che è molto fertile. E a questo proposito volevo domandare sia a Laura che a Fausto un po', diciamo, qual è la vostra sensazione anche appunto dalla vostra esperienza personale riguardo, da un lato, i sistemi di allarme, ossia, insomma, hanno funzionato? Voglio dire, l'evento è stato così catastrofico, così violento, che per quanto abbiano funzionato bene c'era poco altro da fare? O invece, insomma, magari si può fare una riflessione anche su questo da un punto di vista critico e soprattutto costruttivo verso il futuro? E dall'altra, anche, insomma, se ne sta parlando molto su tutti i media ultimamente, la grande presenza di volontari. Ecco, qual è anche la vostra percezione al riguardo? Laura, non so se vuoi cominciare tu parlando di Ravenna e poi sentiamo Fausto. D'accordo, beh, nel caso di Ravenna, come ho detto, rispetto ai sistemi d'allarme, l'allerta c'era, oltretutto c'è stata un'alluvione 2 settimane fa che aveva reso fragile il territorio, quindi avevamo già chiuso le scuole previamente, ci sono stati delle evacuazioni, ma questo non è stato utile per il fatto che l'alluvione è stato troppo forte e troppo ampio su un territorio vasto come mai era successo. Quindi l'allerta è stata, io ho sentito su Ravenna e anche appunto su altri paesi una presenza forte dei sistemi di soccorso che però erano assolutamente insufficienti, nonostante già appunto sapessimo cosa stava succedendo. Io rispetto invece al dopo, sono sorpresa, ed è l'unica cosa positiva in questa tragedia, nel vedere come tutti quanti, soprattutto quelli che sono stati colpiti e quelli che non sono stati colpiti direttamente, insieme a cercare di riparare il disastro. Ci sono paesi che hanno situazioni che sembra che sia scoppiata una bomba, no? Cioè tutto devastato, case, macchine travolte, tanto fango, e dappertutto sono andati in tutta la Romagna, appena si poteva muovere, sono stati raggiunti i paesi e si aiutano le persone a sgomberare i mobili, a pulire le proprie case, a spalare fango sulle strade. Non so se è adeguata la metafora del formicaio, però se la si pensa come metafora positiva, sì, perché davvero c'è stata una grandissima solidarietà da parte di tutti, assolutamente. Collaborazione, più che solidarietà, la cambierei di collaborazione, perché siamo tutti in questa situazione e ci si sta cercando di aiutare, sia per quel che riguarda le case, sia per quel che riguarda il patrimonio culturale, che comunque in alcuni casi è stato danneggiato. Grazie Laura. Fausto invece, da Conselice, tu come la vedi? Ma sui sistemi d'allerta ho qualche perplessità per il fatto che si è puntato molto sulla rete, puoi immaginare, questi piccoli paesi hanno una popolazione con un'età mediamente piuttosto anziana, le nascite non sono tantissime, i giovani cercano lavoro altrove, questa è una dinamica che va avanti da quando ero piccolo io, quindi naturalmente non è soltanto accelerato negli ultimi anni, e quindi ovviamente la popolazione anziana, se tu hai un sistema d'allerta con notifiche, quindi deve essere connesso a internet, diciamo che in quel caso è stata un po' la tempesta perfetta, perché internet non funzionava, ci hanno tolto la luce, quindi ovviamente non potevi usare neanche il wifi domestico, e quindi c'è stato un blackout di informazioni per una mezza giornata, quasi una giornata intera, nelle quali veramente non si capiva dove fossero le istituzioni. Poi parliamo, ovviamente noi abbiamo degli organi amministrativi aggregati su alcune funzioni, ovviamente abbiamo questi piccoli comuni da 7, 8, 10, 11 mila abitanti che ovviamente non hanno personale, non hanno nemmeno più neanche gli stradini che possono andare a chiudere le buche, quindi ovviamente non è che hanno gente che può andare col megafono, capito, ad avvisare nelle strade, e questo ovviamente manca, perché la popolazione più anziana era assolutamente oscuro, cioè magari sapeva, dicevano allerta meteo, ma ce ne sono tantissime nell'anno, ovviamente, dell'allerta meteo. Non è che riconduci che l'allerta meteo piove un giorno e mezzo, due giorni, fortissimamente, e questa volta esondano tutti i fiumi nella tua zona, ovviamente. Non, quindi questo, diciamo, il puntare molto sulla parte online. Dico, mi è capitato anche, appunto, non avendo internet, dovendo andare a ricaricare il telefono, trovando un contadino che aveva portato un generatore a gasolio. Siamo messi, ti immagini, con una ciabatta in 40 persone a caricare il telefono, quindi puoi immaginare con la velocità che ci si metteva, perché naturalmente se hai una ciabatta, una presa elettrica in 40, però era quello che c'è, che passava il convento, quindi ovviamente ci si arrangia, quindi la collaborazione assolutamente, quindi ti si è aiutati in quel modo. Per quei due giorni c'è stata la sensazione che lo stato visibile della serie non fosse presente, perché comunque non avevi centri di potere ancora, centri di gestione dell'emergenza o pienamente operativi. Ecco, questo purtroppo l'ho sentito, però ovviamente si è passata una settimana, adesso abbiamo fortunatamente squadre di volontari dai comuni vicini, stanno iniziando ad arrivare adesso a pulire, perché naturalmente prima non c'era purtroppo altro da fare che evacuare. Eh sì, tra l'altro, a proposito proprio di politica e Stato, insomma, ricordare la carrellata di fotografie propagandistiche che si è fatta la Premier Giorgia Meloni visitando la Romagna, e tra l'altro anche insomma facendo finta di incontrare un supposto volontario che è un militante neofascista. Insomma, cose che sono state pubblicate, che immagino molti degli ascoltatori sappiano. Ecco, però insomma, mentre la RAI si sta convertendo nell'Istituto Luce, insomma, non hanno nemmeno l'accortezza di evitare scene di questo tipo nel mezzo di una tragedia come quella, appunto, dell'alluvione in Romagna. Ragazzi, vi volevo fare un intervento brevissimo solo per sottolineare proprio la straordinaria spontaneità dell'incontro dalla Meloni col volontario, cioè proprio a livello di recitazione erano molto scarsi, si vedeva da vari chilometri di distanza, era tutto molto preparato. Effettivamente, proprio così, per quanto poi gran parte dei media abbiano ripreso la notizia come invece fosse davvero un incontro casuale. E un'ultima domanda per Laura e Fausto, che riguarda il post, cioè insomma il giorno, il day after, se così vogliamo dire, o meglio sarebbe dire i mesi, gli anni a venire, e che riguardano ovviamente non tanto i massimi sistemi, perché insomma poco forse possiamo dire su quello che è il cambiamento climatico e tutto ciò che comporta con eventi di questo tenore, ma che riguardano soprattutto insomma le persone che hanno sofferto danni sulla propria casa, le automobili, insomma, eccetera, i campi e così via. Ecco, immagino che adesso ci sia ancora insomma ci siano abbastanza incognite su quelli che sono i danni e su cosa si possa fare, ma ecco, voi stando sul territorio e insomma informandovi, soprattutto penso a Fausto che è stato colpito dall'alluvione, avete delle informazioni precise su il fatto che ci saranno degli aiuti di Stato da parte della regione, insomma da parte delle amministrazioni, per insomma riuscire, diciamo, ad aiutare le persone che sono state colpite dall'alluvione, o invece diciamo c'è un grande silenzio e non si sa nulla, un po' come spesso succede nella scena da Italietta da Burla? Ma se posso dire, al momento le informazioni sono ancora scarse. L'indicazione di massima che passa attraverso i social paesani è: fate foto, documentate tutto, conservate gli scontrini. Quindi, però ovviamente per un ipotetico rimborso, qui davvero non è che si creda più di tanto, però ovviamente documentare lo si fa, perché naturalmente molta gente, la mia vicina di casa oggi buttava via i ricordi di una vita, perché naturalmente lei ha avuto mezzo metro, anche, dipende anche dalla sua abitazione, davvero mi piangeva il cuore vedere buttare via questi libri fradici ormai inservibili. Ovviamente i danni sono i più diversi, naturalmente sono sia anche danni morali, perché naturalmente tu hai perso, c'è chi ha perso le foto di famiglia, quindi qualcosa anche di insostituibile, non soltanto la classica lavatrice, ecco, per dire. Però sul dopo non saprei, perché luoghi come quello dove vivo io ci vivo perché la mia famiglia ha scelto di viverci quando stavo nascendo, e quindi, come dire, insomma, da Lugo, di Romagna, si è passate con sé, diciamo, sono comuni confinanti, quindi alla fine cambiava poco, però comunque sono piccole realtà che sono diventate negli anni un po' più dormitorio, perché naturalmente tendenzialmente le case costavano meno, erano dei comuni in provincia di Ravenna in cui le case costavano meno, quindi questo portava chi lavora nei distretti industriali, anche venendo da altre parti d'Italia, quindi parliamo di molta, molta immigrazione interna, portava appunto a cercare casa lì, però a vivere anche meno in paese. Infatti c'era comunque la lamentela più comune: io faccio comunque volontariato localmente da tanti anni e c'è sempre la cosa, ma però c'è meno ricambio naturalmente, perché comunque c'è questo modello del lavoro a 20 km da Conserice, torno a casa la sera, mi chiudo nel mio, no, nel mio vano, e quindi non ho rapporti col paese. Temo che appunto quello si possa, cioè, uno, la speranza è l'ultimo a morire ovviamente, però un po' il timore ce l'ho che questa mazzata naturalmente fortissima porti molti, magari quelli che non avevano un legame forte col paese, a dire vabbè, allora cerco casa, ho perso tutto, quindi rinaffitto, cerco casa, non so, a Imola, cerco casa, a Faenza non è massimo come sicurezza neanche quello, alla fine i posti sono, però magari a lasciare appunto, certo, il borgo, perché non c'è quel tipo di, certo, legame che può invece essere in altre realtà, ecco. Laura, una battuta telegrafica per chiudere anche tu su questo? Io non faccio parte delle persone che hanno perso cose, anche se l'ho visto, ho visto questo smarrimento attorno a me, e penso soprattutto all'esigenza di appunto essere comunque in un luogo protetto, cioè di adeguare questo territorio a questi cambiamenti climatici così, così drastici che stiamo vivendo, perché altrimenti ritornerebbe a essere inabitabile. Quindi io sento soprattutto questa insicurezza collettiva e il bisogno delle istituzioni passa da lì, cioè dalle risposte che ci devono essere, non soltanto per quel che riguarda quello che le perdite economiche, quelle intime sono nel cuore di tutti, ma anche riguardo al sistema, a questo sistema di acque, di scolo e di fiumi, di argini, che era stato pensato per un alto clima e che quindi si deve adeguare, si deve rinforzare, e gli investimenti dovrebbero essere proiettati lì, sostenere un territorio che ha dimostrato di essere fragile. Eh sì, questa riflessione è molto importante e va tra l'altro al di là della Romagna, riguarda in buona misura tutto il mondo e soprattutto anche i paesi del Mediterraneo, no? Con i cambiamenti climatici. E Fausto e Laura, grazie davvero di essere stati con noi, un abbraccio enorme. Fausto, in bocca al lupo, coraggio, e speriamo che insomma le cose migliorino. E Laura, grazie di essere tornata. Grazie ancora. Grazie a voi e viva la Romagna. Ecco, sempre alta la bandiera romagnola, sempre, che noi qui difendiamo a Zibaldone. Andiamo ad ascoltarci una canzone intitolata Contadini, visto che parlavamo tanto dei campi, appunto, della bassa del Ravennate. E loro sono i Cacao. Thank you. Davvero sono i Cacao, questo brano si intitola Contadini del 2016. Banzo, presentiamo questo progetto che forse ai più non è conosciuto e è molto meritevole, insomma si è capito da questo brano che è molto bello. I Cacao, per chi ha la bontà di seguirci, magari li ricorda da lo speciale delle canzoni d'estate l'anno scorso, dove vi avevamo proposto la loro eccezionale versione della Lambada, che è presentata con questo stile che avete appena sentito in Contadini, cioè è un duo basso e chitarra, con questo suono che alle volte diventa anche molto psichedelico. E io li ho visti dal vivo varie volte quando tornavo sul territorio. Se avete modo, anche loro, non perdeteli dal vivo, perché ha già la line-up è molto peculiare, come avete sentito il suono è molto personale e dal vivo si nota ancora di più. Eh sì, e adesso però facciamo un salto indietro, andiamo a una quarantina d'anni fa, dove troviamo Raul Casadei con la sua orchestra spettacolo e un brano, Banzo, che insomma forse non è forse dei più conosciuti, però è un brano che poi insomma quest'oggi sì che vogliamo mandare in onda, che si intitola appunto Polesine. Allora sì, è un brano credo del 1977 e in realtà credo che sia anche abbastanza conosciuto fra gli estimatori di Casadei, certamente non è fra le canzoni cartolina, perché beh, innanzitutto non si parla della Romagna, ma si parla appunto del territorio del Polesine, e questa canzone descrive l'esperienza di una persona del luogo costretta ad abbandonarlo per via delle alluvioni che hanno colpito il territorio. Non so se la canzone faccia riferimento più all'alluvione del 51 o quella del 66, la prima era stata più catastrofica, però diciamo che comunque Casadei si è voluto spingere oltre fuori dalla Romagna con questo valzer, anche per descrivere un argomento, ecco, più serio della media del liscio, che è sempre improntata alla spensieratezza, proprio come cifra quasi ideologica. Andiamo ad ascoltare allora Orchestra Spettacolo Raul Casadei, Polesine. C'è una ferita dentro il mio petto, l'amore e l'odio per la mia terra. Negli occhi l'antico padre mi disse: fuggi, che qui si muore. Polesine, Polesine, vestita nero, la vecchia madre, la madre scarna sulla mia guancia la sua carezza, mi disse addio, e per le strade di tutto il mondo tutta una vita ho camminato senza sentire la nostalgia di questa terra che m'ha creato. Sarà per caso che son tornato, o in mezzo all'odio c'era l'amore. E il fiume corre, e il fiume piange, e il fiume canta la sua canzone. Segue il remo del pescatore che si dipinge nella palude. Polesine, Polesine, e forse il tempo che si è fermato e nel mio petto scoppia l'amore per questa terra che ho tanto odiato. Ricominciare è troppo tardi, il tempo passa, per me è finita. Mi guarda un bimbo con gli occhi grandi, corre nel vento pieno di vita. E il fiume piange nella pianura, e il fiume canta sotto la luna. E con le note di Polesine dell'Orchestra Spettacolo Raul Casadei abbiamo con noi quest'oggi un altro ospite, è Federico Savini, lui è giornalista di Sette Sera, si occupa di musica, di spettacolo, insomma dopo ne parleremo anche con lui, ma anche di cronaca locale, soprattutto ovviamente in questi giorni. Federico, innanzitutto benvenuto a Zibaldone e grazie di essere con noi questo pomeriggio. Ciao, ciao Steven, grazie a voi di avermi chiamato. No, un piacere averti con noi. La prima domanda era anche, insomma, visto che tu ti occupi appunto di cronaca locale, hai seguito tutto quello che è successo e sta succedendo in Romagna, tu diciamo sei di Russi, quindi nella bassa Ravennate, però ecco, ti sei mosso, immagino, comunque hai cercato di capire quello che sta succedendo attorno a te, quindi se ci volevi offrire un attimo il tuo punto di vista di quello che sta succedendo in Romagna con l'alluvione, e soprattutto anche in vista un po' magari dei prossimi giorni. Sì, guarda, io innanzitutto questa tragedia, catastrofe, questa volta possiamo usare i paroloni che ci vengono in mente, che per quello che ne posso dire non sono inappropriati, l'ho seguito innanzitutto da romagnolo, da cittadino di Russi, da abitante della Bassa, di un territorio che sta tra il Lamone e il Montone. Direi che in questi giorni del Lamone e del Montone se ne è parlato in tutta Italia e probabilmente anche oltre, per cui chiaramente la prima necessità di capire è stata quella di salvare la pelle, di salvare la casa e di vedere cosa si poteva fare. Intanto noi avevamo seguito tantissimo anche l'alluvione di 15 giorni prima, sì, che viene oggi, rischiamo quasi di dimenticarcela, ma era stata un'alluvione discretamente devastante in alcuni punti, Bagnacavallo, Villa Serraglio, Boncellino, che a Russi nello specifico ha salvato la pelle sbagliando da quella parte. E quando è arrivata questa alluvione qui, ovviamente la prima cosa è stata la notte seguire come un maniaco sia il sito dell'ARPA per monitorare il livello dei fiumi, sia tutte le pagine dei comuni per le notizie, i siti, eccetera. Quindi non mi sono nemmeno minimamente preoccupato della dimensione locale dell'evento. Io credo di aver scoperto che questa roba era su tutti i giornali d'Italia, non che fosse imprevedibile, però insomma credo di averlo scoperto tipo due giorni dopo, nel senso che i primi giorni sono stato impegnato a capire se l'acqua veniva verso casa mia oppure no. Russi peraltro è stato un posto particolare per questa alluvione, perché in definitiva nella bassa Ravennate è stato uno dei posti che se la sono cavata meglio, detto che però nelle nostre campagne, in particolare Pezzolo, ci sono stati anche due morti, quindi in realtà se guardiamo al territorio comunale non è mica andata tanto bene. L'abitato della città sì, però è stato il posto dal quale almeno credo si sia capito quello che è successo da una certa fase in avanti, cioè dopo la fase devastante delle piene del Savio a Cesena, del Lamone a Faenza, quella che ha sventrato proprio delle città, che chiaramente è andata direttamente, credo, sulle cronache nazionali. Poi c'è stata questa lunga fase di ripresa, che non era il post-emergenziale del pulire il fango che si vedeva a Cesena e a Faenza, era ancora una perdurante emergenza, perché nella zona della Bassa, ovviamente, i fiumi scendono a valle, avevano svegliato talmente tanti fiumi che a un certo punto avevano riempito le campagne e anche i canali. Per cui queste masse d'acqua incontrollate sono andate ovunque ed è stato un thriller, un thriller, assolutamente non si riusciva a capire dove andasse l'acqua, e tuttora sappiamo che ce n'è ancora con Celice, dove peraltro ci sono problemi anche di altra natura, epidemiologica, eccetera, Fornace Zarattini, eccetera. Quello che ho cominciato a chiedermi è stato: ma una persona che tutti i giorni da Roma e da Milano vede queste notizie, questo sfacelo, non vede per esempio immagini dalla collina, è ancora più devastata forse della pianura, ma non ci vanno le truppe televisive, per cui se ne è parlato molto poco. Come fa a capire perché siamo in emergenza, io dicevo, da una settimana, ormai quasi da due? E questo aspetto, che pure è un po' tecnico, dell'alluvione da canali o dopo quella dei fiumi, forse non era passato. Insomma, la stampa nazionale, secondo me, come al solito, l'ha buttata almeno un po' in piagnisteo, parte inevitabile, e un po' anche in cacciara politica, francamente affrettata, frettolosa. Le colpe indubbiamente si andranno a cercare, le migliorie si progetteranno, ma insomma siamo al cospetto di una tragedia di proporzioni immani. Ecco, Federico, hai praticamente già anticipato la mia prossima domanda, che era quella sul trattamento, voleva essere sul trattamento che ha dato la stampa nazionale a questo disastro, anche dalla tua prospettiva di giornalista locale sul territorio. Ecco, io devo dire che come romagnolo all'estero sono rimasto colpito negativamente, se posso dire, perché mi sembra che tutte le notizie, quindi altri territori hanno avuto o avranno la sfortuna che abbiamo avuto noi, di essere sottoposti un po' a quel mix di impressionismo e pressapochismo, diciamo. Pressapochismo perché innanzitutto la stampa nazionale non riesce a distinguere l'Emilia dalla Romagna, che sono due territori amministrativamente... Clamoroso, abbiamo visto la cartina del comune di Ravenna per 10 giorni con su scritto Emilia-Romagna, vabbè. Ecco, quindi c'è già... No, hai ragione, è un rilievo importante, questo pressapochismo, però a volte quando si parla anche della resilienza dei romagnoli si cita la Ferrari, che insomma è un mito emiliano per definizione, e poi l'impressionismo, cioè io rimango sempre sconcertato dal fatto che come... I grandi processi, perché questo è un evento macroscopico enorme, vengono sempre sminuzzati in storielline come il pilota di Formula 1 giapponese che contribuisce, gesto meritevole, non sto criticando il pilota, che contribuisce. Però un po' troppo spazio, certo. E ovviamente anche ad esempio, non lo so, se si tratta dello specifico di Solarolo, si finisce sempre a parlare di Laura Pausini, i genitori vivono sul territorio, ecco, quindi... Vuol dire questo mix appunto di pressapochismo, non sappiamo dov'è la Romagna, e l'impressionismo, sempre queste storielline di uso e consumo velocissimo per lettori svogliati, ecco. Sì, era l'asinello che ha trovato la strada di casa e cose di questo tipo. Sì, e io ho pensato che forse sarebbe stato più utile cercare di capire la dinamica, perché davvero il perché questa cosa duri così tanto, secondo me da fuori, non si era assolutamente capito. Dicevo, la cosa che mi ha colpito della stampa nazionale è stato sentire il pressapochismo soprattutto su certe materie, come per esempio il controllo idrico del territorio, che chiaramente i giornalisti di Roma non conoscono, perché non è il loro pane quotidiano. Messi a confronto con i sindaci di città delle volte anche piccole, certo, di un territorio che questi problemi ce li ha, si è vista tutta la differenza di competenza sui temi. Dopodiché i sindaci chiaramente hanno delle responsabilità, sicuramente sono stati fatti degli errori anche di lunga durata, ma insomma vedevo accanirsi contro la politica e l'amministrazione di questo territorio delle persone che non ci vivono, con degli argomenti francamente grossolani, tagliati molto con il macete, e dall'altra parte trovare persone che non solo probabilmente non dormono da una settimana, e che non sono che gli ultimi avamposti di una storia politica che comunque nasce prima di loro e di scelte che sono state compiute in passato, persone che hanno una competenza, comunque hanno dimostrato di avere una competenza, una conoscenza del territorio e della materia notevole, che vengono come giudicati da una prospettiva che è una prospettiva sostanzialmente disinformata, e per l'appunto tra l'impressionismo e il sensazionalismo, certo. Sì, no, l'impressione è che appunto si voglia puntare molto alla ricerca di capri espiatori, appunto, nessuno vuole negare che ci siano delle responsabilità politiche, però appunto quando ancora si sta svolgendo l'emergenza, siamo nel pieno delle decisioni da prendere immediatamente, ecco, io vedo della gente fuori dal territorio che lancia sentenze definitive, mi sembra anche per un interesse politico, non lo so, e rimango un po' sconcertato, perché dice lascia appunto almeno che defluisca l'acqua, ecco perché. Paradossalmente forse è meglio la vita in diretta che non i talk politici, se non altro giudicano meno, ecco, l'aspetto umano comunque deve essere messo in mostra, perché veramente siamo di fronte a una catastrofe qua, eh. E appunto adesso vorrei cambiare un attimo il punto di vista, ma forse neanche del tutto, ecco, non è stato detto in precedenza, tu sei anche giornalista musicale, scrivi da molti anni per la straordinaria rivista Blow Up e hai scritto anche un libro sul Liscio Romagnolo, e forse non si capisce da che parte voglio andare, ma si capirà, ecco, il Liscio appunto è una parte fondamentale dell'immaginario della nostra terra e di come ci siamo autorappresentati noi romagnoli nel corso dei decenni, ecco, perché siamo passati da essere terra di paludi a terra di cuccagna, e c'è questa immagine del romagnolo come solarità estrema, cioè la solarità, il sorriso, l'allegria, tutti elementi ai quali ha contribuito moltissimo Raul Casadei, è stato il nostro ambasciatore nel mondo. Ecco, io ti volevo chiedere, come pensi, è una domanda un po' da massimi sistemi, mi rendo conto, come pensi che possa cambiare la percezione della Romagna fuori dalla Romagna e anche la percezione che i romagnoli hanno di se stessi dopo un evento così, e anche con la prospettiva che magari il cambiamento climatico ci porti a dover affrontare, spero di no, con più frequenza questo tipo di eventi. Ok, guarda, massimo sistema la prendo un attimo da lontano, nel senso che effettivamente questa terra qui, e questo spiega il perché un'alluvione assuma delle proporzioni e delle durate così devastanti dalla nostra parte, al di là del fatto che il fenomeno meteorologico che ne è la base è stato eccezionale sotto ogni punto di vista. Questa era una palude. Qui c'era la malaria, qui ci sono stati i briganti, questo era un Far West nell'Ottocento, per cui è una terra che è stata bonificata con delle fatiche disumane dai nostri antenati, i nostri nonni, ed è stata fatta diventare nella sua parte delle spiagge una specie di divertimentificio, nelle campagne ci sono state le cooperative, uno sviluppo agricolo molto importante, insomma, diciamo che la storia di questa terra spiega poi perché il romagnolo medio sia appunto molto orgoglioso di essere romagnolo, perché veniamo da una storia di grandi fatiche, grandi difficoltà, e abbiamo creato qualcosa che non c'era e che viene, non so se invidiato, ma certamente frequentato un po' da tutti gli italiani. Il turismo di massa, con il quale Raul Casadei c'entra molto, perché tra le altre cose è stato l'inventore delle canzoni cartolina, no? Le vendeva ai turisti, faceva una canzone su ogni località turistica, in modo che il turista se la comprasse e la portasse a casa, è legato molto a questo. Quindi l'immagine promozionale, cialtronesca, grossolana, un luogo comune, grande come una casa, del romagnolo solare che canta Romagna mia dopo che ha pulito, no? Anche gli angeli del fango, eccetera, eccetera. Cose che sono state criticate, secondo me, però con un'enfasi e con una frettolosità francamente inappropriata, perché sicuramente saranno cose grossolane, facilone, retoriche. Ragazzi, siamo disperati, abbiamo bisogno di tutto, abbiamo bisogno di ritrovare lo spirito di popolo, e i romagnoli lo spirito di popolo se lo sono saputi inventare tante volte. Lo stesso Liscio è una forma di invenzione della tradizione, per cui in realtà è così radicato nel nostro DNA perché racconta una storia molto simile a quella della nostra terra. Un'invenzione di qualcosa che non c'era e che ha funzionato sia commercialmente che iconograficamente che identitariamente. Detto questo, come ne usciamo? Questa è una botta devastante. Questa volta sicuramente la retorica del romagnolo che sorride sempre, che si rialza sempre da solo, di sicuro non sarà sufficiente. Crollerà? Io spero di no, penso di no sinceramente, però è chiaro che le conseguenze, le ricadute sul territorio da un punto di vista turistico, da un punto di vista economico, sai, rischiano anche di deprezzarsi i terreni da queste parti, eh. Bisogna vedere quanto la botta economica sarà grossa, perché se i romagnoli in questo momento stiamo incassando tantissimo sostegno, e credo anche sostegno sincero, Quando ti dicevo forse meglio la vita in diretta dei programmi politici, intendo anche questo, che lì si è visto, mentre di là si sono visti anche francamente un po' degli sciacalli, per le ragioni politiche che tu suggerivi prima, si sono accaniti, dalle altre parti ho visto molta molta empatia, quindi c'è molto affetto per questa terra. Però se questa terra diventerà decadente, diventerà malsana, diventerà completamente povera, perderà il sorriso, è chiaro che alla lunga non potrà esercitare lo stesso appeal e mantenere il mito che ha saputo creare. Molto, molto starà a noi, sarà tantissimo a noi, ma abbiamo bisogno di aiuto. Questa volta ne abbiamo bisogno senza ombra di dubbio. Mi permetti una battuta? Siamo condannati a cantarcela, a suonarcela per continuare a piacere all'esterno, ecco. Sì, beh, l'abbiamo sempre fatto però, eh. Il fatto di esserci comunque riusciti a piacere all'esterno non era scontato. C'è abitudine, quindi, dici? Secondo me sì. E ti dico, non credo che i romagnoli molleranno facilmente da questo punto di vista, ma ripeto, non è una botta normale. No, affatto, non è proprio una botta normale. Insomma, vedremo comunque, magari ritorneremo a sentirci. Federico, grazie davvero di essere stato con noi, di averci insomma raccontato un po' quello che hai visto e di riflettere un po' su cosa anche implica quello che si sta vivendo in queste settimane in Romagna per il futuro di questa terra che molti di noi insomma conosciamo bene, amiamo. Grazie a voi Steven, grazie Enrico, salutatemi Fausto, grazie ancora. Lo faremo, grazie davvero. Ricordo che Federico Savini è giornalista di Sette Sera, si occupa di cronaca locale, ma come avete anche potuto sentire è anche giornalista musicale, scrive da tanti anni per Blow Up e ha pubblicato questo bel libro fondamentale per capire la storia del liscio. Noi andiamo ancora con un po' di musica e troviamo un'altra band, un altro artista che ha a che fare con la Romagna, i Quinto Rigo, con questa canzone molto amata ormai una ventina di anni fa quando fu pubblicata, La nonna di Frederick lo portava al mare. Sanno e dalla riva tracce di vento l'oceano brucia di nubi spegnendo il cielo è l'ira dell'isola che si risveglia lei lo sa solo una scia un grido Loro sono i Quinto Rigo, la nonna di Frederick lo portava al mare, un brano di poco più di una ventina d'anni fa. Banzo, i Quinto Rigo in quel momento, in quegli anni, erano abbastanza conosciuti, suonavano in giro, avevano fatto un paio di album di successo. Sì, diciamo che fu la loro fase di maggiore successo commerciale, con John De Leo alla voce, contraddistinta da due partecipazioni a Sanremo con Rospo nel 98, credo, Nuove Proposte, poi Ben Ti Voglio Angelina nel 2001. Ma è un gruppo che secondo me è riduttivo, ecco, magari circoscrivere alla loro fase di maggiore successo commerciale, perché sono ancora attivi e hanno proposto nel 2022, anche solo per darti un esempio, un album di cover di Charles Mingus, quindi insomma, diciamo che c'è, si vede che c'era comunque una preparazione musicale ragguardevole dietro, sì, e che continua ad esprimersi tuttora. Sì, sì, notevole, notevole. Tra l'altro anche loro romagnoli, provenienti, membri della band, Banzo, da diverse zone, alcune che abbiamo anche nominato durante questa puntata. Sì, esatto, credo che due membri fossero cesenati, John De Leo era lughese, poi avevamo un membro da Fusignano, però dovevi controllare comunque da varie zone della Romagna, per quale anche la mia, ecco, più direttamente. Eh sì, e ci stiamo avvicinando alla fine di queste due ore di Zibaldone, abbiamo tempo ancora per un paio di brani, e torniamo qui al romagnolo con questo brano di Andrea Lepri, Banzo. Sì, che si intitola Al mio radice, cioè Le mie radici. Allora ce lo andiamo a sentire, poi magari diciamo qualcosa anche su di lui. Eccolo qui. Al bon vestir. Lui è Andrea Lepri al Miradis. Banzo, prima di salutare ci diciamo qualcosa però su questo artista, è la prima volta che lo mandiamo in onda anche qui a Zibaldone. Sì, Andrea Lepri attualmente si sta dedicando a generi musicali completamente diversi, perché è attivo col duo Power Nocturnus, che ha sonorità molto più oscure e sperimentali. Però nel 2006 pubblicò questo disco che si chiamava Radis, dal quale abbiamo tratto Almiradis, che faceva parte, aveva questo suono, avete sentito, più cantautoriale, però secondo me anche con una impronta leggermente progressive, verrebbe da dire. E è un album che ricorderebbe, faceva parte della prima triade di uscite dell'etichetta Palustre, che è stata attiva in quel periodo, circa 2006, per alcuni anni nel territorio ravennate, con uno spirito fieramente underground, autoproduzione. Era un terzetto di uscite, le altre due erano Aldo Becca e Matteo Allodoli, che avevano la peculiarità di essere sagomate, cioè nel senso che si apriva il packaging, c'era un disegno dei musicisti, che praticamente non so di che grandezza, però abbastanza ampio, ecco. Eh sì, e noi con questa canzone veramente siamo arrivati al momento dei saluti. Noi ci ritroviamo come sempre la prossima settimana con Zibaldone e ci salutiamo, Banzo, con una band che di cui avevamo parlato tempo fa, ormai veramente sono passati anni. Parliamo dei Sacri Cuori, delle sonorità che a me sono sempre piaciute molto, non so tu che ne pensi. Sì, creatura del chitarrista Antonio Garmentieri, diciamo che come sonorità siamo prevalentemente nell'ambito della musica strumentale e suono fra blues e psichedelia, e è un suono molto interessante che, diciamo, decisamente non rimanda a quello che si associa tipicamente alla Romagna. È un suono anche molto americano, infatti hanno anche collaborato in EP con Mark Heitzel degli American Music Club. È un suono decisamente più internazionale e comunque di grande qualità, quindi era un'ottima chiusa per questa puntata. Sì, anche perché Savini prima ci parlava della Romagna del passato come un far west, e quindi insomma, dai, in fin dei conti ci sta questo far west molto americano nei sound dei Sacri Cuori. E grazie di averci accompagnato in questa puntata di Zibaldone, ci ritroviamo la prossima settimana come sempre qui su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona, in streaming all over the world alla web della nostra Radio Libera barcellonese, e poi i podcast li potete scaricare dal nostro blog zibaldone.contrabbanda.org. Niente di più, niente di meno, forse sì, quello che era solito dire verso quest'ora alle 19.55 di ogni venerdì sera. Enrique Tierno Galvani, il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, che insomma diceva che cosa, Banzo? Tieni botta, Romagna! Effettivamente, hai proprio ragione. Siamo d'accordo moltissimo quest'oggi con Enrique Tierno Galvan. Banzo, grazie, alla prossima! Grazie a te, Steven, a venerdì prossimo. Loro sono i Sacri Cuori e questa canzone si chiama Maddalena. Godetevela. Però va a essere una sola vez.